Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo in apertura molto di imprese, piccole e medie, ma anche di eccellenze di impresa, oggi come ogni anno assegnati al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, i premi Leonardo 2016, era presente anche il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. L'obiettivo del premio Leonardo è premiare le aziende che diffondono e rafforzano l'immagine dell'Italia, dell'eccellenza italiana nel mondo. Vi dico già che hanno vinto Alberto Bombassei come premio Leonardo, e poi sui diversi premi e riconoscimenti si è andati dal gruppo marchigiano Elica, che fa cappe industriali, al gruppo Maccaferri, al gruppo Veronesi, alla Masi Agricola, e poi anche il certo del premio Leonardo Startup a Value Biotech. Per quello che riguarda i premiati, e parleremo però anche di un'iniziativa oggi annunciata che va nella direzione di capire e monitorare l'andamento delle piccole e medie imprese italiane. Fin qua uno potrebbe dire nulla di nuovo, ma lo fa attraverso uno dei social più conosciuti, più popolari, mi riferisco a Facebook. E la domanda può essere: ma cosa c'entra Facebook con lo stato di salute delle piccole e medie imprese italiane? Facebook, uno la immagina, utilizzata neanche dai ragazzi, perché se ben capito vanno più su Instagram e su altri social, da persone della mia età, quindi diciamo non nativi digitali, sicuramente. Dopodiché invece parleremo anche della vicenda, e qui c'è poco da sorridere, della Consip. L'inchiesta sta diventando una slavina, già i nostri GR24 vi hanno aggiornato, ci sono anche anticipazioni del settimanale L'Espresso che chiamano in causa ancora di più direttamente dal padre di Renzi, quindi Tiziano Renzi, e Denis Verdini. Di questo parleremo, perché è un'inchiesta che è tutt'altro che destinata, da quello che leggiamo, a fermarsi qua. Tra l'altro faccio notare che l'imprenditore Romeo, che era stato citato nell'inchiesta, ce ne siamo occupati anche noi venerdì scorso nella nostra classifica, quindi magari un ricordo di questo potremmo anche farlo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Visto che siamo in apertura, do subito i mercati: più 0,30% Milano, invariata Parigi, Francoforte meno 0,17%, Londra anch'essa è quasi invariata. Tra i titoli segnalo soprattutto Yoox Net-a-Porter più 4%, Unicredit più 2,20% e Leonardo Finmeccanica più 1,20%, come Fineco Banca, Brembo e anche Recordati. Fronte opposto, ripeto, molto contenuti i cali: meno 2,50% Prismian, meno 2,20% Luxottica, meno 1,20% Unipulsai, meno 0,90% Saipem. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda gli Stati Uniti, abbiamo un dato sui sussidi di disoccupazione ottimo, ai minimi da 44 anni. Le richieste di sussidi di disoccupazione calano a 19.000 unità. Per quello che riguarda invece la Brexit, di nuovo c'è un po' un balletto in Gran Bretagna sulla Brexit. Il governo britannico continuerà ad assicurare il pieno rispetto dei diritti e obblighi europei fino al giorno in cui il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea, inclusi quindi i diritti di cui godono attualmente i cittadini degli Stati membri dell'Unione. Quindi niente cambia fino a che la Gran Bretagna ufficializzerà la sua uscita. La Commissione Europea invece ammonisce, però l'ammonizione mi sembra che serva poco per ora, gli Stati membri che non attueranno i ricollocamenti dei migranti. Non siamo ancora alle procedure di infrazione? Bah, insomma, non si capisce perché, però, sul deficit, vedi il caso d'Italia, le procedure di infrazione debbano arrivare con una rapidità eccezionale, mentre se un paese non accoglie quanto richiesto e quanto, diciamo, firmato a livello europeo, non debbono arrivare ancora le procedure di infrazione. Comunque, dice il commissario alla migrazione Avramopoulos, non esiteremo, se non avremo risultati tangibili, ad avviare le procedure di infrazione su 2.600.000 richiedenti asilo. Solo il 57% ha ottenuto lo status, quindi l'Unione Europea rischia in questo momento di rimpatriare, rischia a livello non di valutazione, di rimpatriarne 1 milione. Pieno sostegno all'Italia e alla Grecia per quanto riguarda i centri di detenzione. Ancora due notizie, poi arriviamo all'Italia. L'euro, l'inflazione torna al 2% a livello europeo a febbraio, e questa non è solo quella italiana, dovuta a, alla frutta e oltre che e alla verdura, ma è la componente energia più 9%, seguita da cibo, alcol e tabacco, più 2,5%, e i servizi più 1,3%. La disoccupazione giovanile nell'Unione Europea è stabile, è in calo invece in Italia, che comunque ha il quarto tasso più elevato di tutta l'Unione Europea, cala dal 39,2 al 37,9%, resta comunque la nostra disoccupazione giovanile purtroppo la terza più alta dopo la Grecia, che è al 45%, e la Spagna, che è al 42%. E di questo ci occuperemo tra breve. Ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio di, diciamo, stato della nostra economia, anche perché oggi sono usciti i dati sulla disoccupazione a gennaio in Italia, in questo caso stabile all'11,9%, 30.000 occupati in più rispetto a dicembre, sono 236.000 in più rispetto all'anno prima, il tasso di occupazione è al 57,5%, sia al massimo dal maggio del 2009, appunto cala la giovanile dal 39,2 al 37,9. Ci sono su questo ricordo ogni volta che la disoccupazione è stabile, cioè è ferma, 11,9%. La disoccupazione misura tutti quelli che non hanno un lavoro tra quelli che lo stanno cercando, l'occupazione invece misura tutti quelli che lavorano tra quelli che potrebbero lavorare, ed ecco perché cresce una e l'altra può anche non crescere. Cresce l'occupazione al 57,5%, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il lavoro, la mancanza di lavoro continua a rappresentare un grosso problema per il nostro paese. I primi dati ISTAT del 2017 forniscono in questo senso alcuni spunti interessanti. Per prima cosa, a gennaio la disoccupazione resta ferma all'11,9%. Il numero degli occupati però aumenta di 236.000 unità rispetto al gennaio del 2016 e di oltre 30.000 unità rispetto a dicembre. Questo è un dato positivo perché il mese di gennaio è stato il primo dopo due anni di bonus sulla decontribuzione in cui le assunzioni non avevano più incentivi, che sono finiti nel dicembre del 2016. Quindi anche senza bonus le assunzioni a gennaio sono aumentate, e peraltro l'incremento riguarda principalmente i lavoratori a tempo indeterminato, mentre calano i lavoratori a termine. Ci sono poi altri due elementi che meritano una segnalazione. Il primo riguarda i giovani. La disoccupazione è in calo al 37,9%, ma questo dato non va letto con troppo ottimismo, perché a gennaio cresce il numero dei giovani inattivi, cioè coloro che non hanno un impiego e che non lo cercano neppure perché sono convinti di non riuscire a trovarlo. Infine, gli over 50. Qui si ripropone un paradosso che vediamo già da alcuni mesi. Questa è la fascia di età dove l'occupazione cresce di più, anche per effetto della riforma delle pensioni, ma gli over 50 sono anche quelli che hanno pagato di più il prezzo della crisi. In 10 anni il numero di chi ha perso il lavoro è passato dai 150.000 lavoratori del 2006 ai 480.000 del 2016. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Pour me a taste of something good. Allora, questi dati sulla disoccupazione e l'occupazione, ripeto, stabile la disoccupazione, in crescita l'occupazione, soprattutto la buona notizia, se vogliamo trovarla in un dato comunque altissimo, il calo della disoccupazione giovanile. Se ne è parlato oggi di prospettive economiche anche sul fronte dell'occupazione, sulle piccole e medie imprese, e se ne è parlato nell'annunciare che il prossimo 22 marzo si terrà un forum importantissimo per quello che riguarda la parte digitale, e quindi mi riferisco da un lato al cosiddetto forum dell'economia digitale a Milano il 22 marzo, organizzato da un lato dai giovani imprenditori di Confindustria e dall'altro, e questo è sembrato a noi un pochino più singolare, da Facebook. Allora ringrazio il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Marco Gai, nostro ospite oggi. Buonasera Gai. Buonasera. Ascoltiamo anche però Gentiloni sulle prospettive di crescita, perché va a inserirsi su questo. Il Premier oggi è intervenuto, ha ricordato che la crescita è moderata ed è limitata, però che la crescita c'è. L'Italia, lo dimostrano anche i dati economici resi noti sia ieri che oggi, è in una fase di crescita, di ripresa anche in termini di occupazione, di lavoro. E tuttavia sappiamo anche che questa crescita, questa nuova capacità di occupazione sono limitate, graduali, hanno bisogno di essere accompagnate. E quindi noi pensiamo a un'Europa che sia da questo punto di vista la cornice che serve per aiutare questa crescita, accompagnare questa capacità di produrre nuovi posti di lavoro, che finalmente il nostro paese, grazie al lavoro fatto in questi anni, sta mostrando. E poi arriveremo anche alle parole del ministro Calenda, al premio Leonardo, poi leggermente corretto il tiro. Però, presidente Gai, oggi voi avete presentato una ricerca appunto per lanciare il forum digitale del prossimo 22 marzo, realizzata per carità con la Banca Mondiale e con l'Ocse, e fin qua tutto ortodosso, ma anche con Facebook. Ripeto, pensavo fosse uno strumento per i social, così non voglio dire cazzeggio, ma insomma, per, ci mancherebbe, massimo rispetto per Facebook, ma come mai avete usato Facebook per un'indagine sulle piccole e medie imprese? Ma in realtà il progetto FED, il Forum dell'Economia Digitale, è partito l'anno scorso come un esperimento che ci vedeva coinvolti con Facebook nel voler parlare di economia e di digitale assieme. Quest'anno si è ripartiti anche con questa ricetta. Prima cosa che mi viene da dire è che la produzione e l'innovazione, quindi Facebook, il social, il digitale, non viaggiano più su due binari paralleli che si incontrano forse all'infinito, ma anche con l'industria 4.0 iniziamo a parlare di industria 360 gradi, quindi non c'è più il software o il digitale da una parte e la produzione e la manifattura dall'altra. L'industria oggi deve essere interconnessa, la trasformazione digitale sta avvenendo, e da qua che noi partiamo per parlare di che cosa succederà oggi e che cosa deve succedere oggi perché domani sia finalmente competitivo come vogliamo. Ecco, poi adesso veniamo anche ai risultati di questa indagine. C'è un tema che noi stiamo affrontando da due giorni e io vorrei che diventasse poi un appuntamento fisso. Stiamo ragionando sul nome da dargli, ossia più o meno futuro o paura, nel senso che questo futuro, anche il tema dell'industria 4.0, della digitalizzazione, dell'internet, delle cose, di tutto quello che abbiamo raccontato, il timore qual è? Ed è un timore che poi ha anche una ricaduta a livello politico, l'abbiamo visto in vari paesi, che questa digitalizzazione porti magari a un aumento sicuramente dell'efficienza e dei ricavi aziendali, ma un calo, per non dire crollo, dell'occupazione. Ora, noi non abbiamo dati che ci permettono di dire, perché è chiaro che si riduce magari in un settore manifatturiero, ma aumenta in chi fa consulenza, start-up. Però insomma, è un timore molto forte, che poi sia la paura del nuovo, la paura della terra incognita, quello che vuoi, ma è un timore che è tanto forte che poi si traduce anche in scelte politiche. Allora, parlerete anche di questo nel forum dell'economia digitale, cioè che l'economia digitale però non può venire percepita come una non dico fregatura, ma la soppressione di posti di lavoro, se non ne crede gli altri, è chiaro che diventa un timore poi. Ma non solo ne parleremo, ma ne discuteremo, approfondiremo, ci sarà anche il ministro del lavoro Poletti, perché questo è un tema assolutamente centrale ed è un tema di responsabilità. L'economia digitale sicuramente mette al centro un ragionamento pratico, la formazione da una parte con l'alternanza scuola-lavoro per avere persone in grado di cogliere il cambiamento e di viverlo e di essere addirittura promotori e driver di sviluppo di questo, e mi viene da dire anche a proposito di questo che il 60% dei ragazzi che oggi studiano, studiano per un mestiere che non ci sarà quando avranno finito le scuole, quindi su questo bisogna iniziare a interrogarsi. Dall'altra parte c'è un discorso di chi già lavora e deve riqualificare il proprio lavoro e deve acquisire nuove competenze, qua la parola chiave diventa politiche attive per il mercato del lavoro, perché sia un mercato del lavoro veramente funzionante. Non è evitando l'argomento o facendo protezionismo che non succede, l'innovazione arriva, non bisogna essere travolti, bisogna condurla. Oggi parlare di industria 4.0, di digitalizzazione, di digital transformation e open innovation vuol dire capire che il mondo sta cambiando e o cambi con lui oppure lo subisci, come tutte le rivoluzioni. Per inciso, lei è d'accordo all'idea che si possano tassare i robot, quella della Martha Bill Gates, nel senso che l'impressione è che da questo punto di vista il lavoro manuale, il lavoro umano è strata, in Italia poi è stratassato, e invece se io compro una macchina magari con gli iperammortamenti, con i superammortamenti, ottengo un beneficio, ma in realtà senza nessun tipo di distribuzione, diciamo, attraverso il carico fiscale. Guardi, io no, non credo che sia una soluzione, perché, come dico, il protezionismo, voler fermare l'evoluzione è sostanzialmente inutile. Adesso non vorrei essere troppo provocatorio, ma abbiamo parlato e discusso anni per togliere l'IMU sugli imbullonati, adesso mettiamo una tassa sui robot e fermiamo un altro processo di cambiamento. Non è percorribile, non è così che credo che la trasformazione si affronta, anzi è continuando nella politica di detassazione a medio e lungo termine del lavoro che si valorizza poi il lavoro stesso e soprattutto si garantisce il welfare state, che è quello che noi abbiamo e che deve continuare a funzionare. Veniamo per concludere ai risultati della ricerca che avete realizzato con Facebook e Oxebank mondiale. Voi avete intervistato 7.400 imprese con le caratteristiche di essere medie e piccole. Che cosa è emerso anche sul fronte dell'occupazione, visto che stavamo commentando i dati di oggi, stabili sulla disoccupazione, in crescita rispetto all'anno prima sull'occupazione? Devo dire che il dato più interessante che è emerso è che da questa analisi il 20% delle imprese intervistate hanno intenzione di assumere nei prossimi 6 mesi. Quindi vuol dire che immersi nel discorso che si sta parlando di economia digitale, di innovazione, di cambiamento, il 20% di queste aziende dice assumerò. Questo è un dato positivo, perché vuol dire che il bisogno di trasformazione c'è e viene cavalcato, e si capisce che l'investimento migliore che possiamo fare insieme ai robot è proprio il capitale umano. Tra l'altro, appunto, esce uno scenario moderatamente positivo su questo, perché oltre al 22% che vuole, che pensa di assumere, c'è una fetta abbastanza consistente che ha una visione positiva, il 50% sul futuro, 30% neutrale, 13% negativo. Guy, bocca al lupo per il forum del 22 marzo, chiaramente anche noi lo seguiremo, vedo molti temi, è ovvio che tra le paure c'è anche la tendenza neoprotezionistica, oltre che quella che abbiamo chiamato un neoluddismo, cioè prendersela con le macchine, non capendo come fecero gli operai inglesi che iniziarono a spaccare Ludd, il loro leader, le macchine, i telai, perché dicevano che il telaio ci porterà via. È vero che il telaio ha portato via lavoro, ma poi nel medio termine ha creato altri lavori, la rivoluzione industriale, diciamo, del vapore. Questo è il tema. Certo che, Guy, queste fasi vanno anche gestite, le transizioni. Non si può pensare che improvvisamente cambiamo un modello produttivo to cure e ce ne freghiamo di cosa capita, diciamo, alle persone che devono ricollocarsi e riqualificarsi. Assolutamente questo non è il pensiero, anzi c'è un'estrema attenzione proprio per quello che si parla di politiche attive, si parla di formazione, ed è per questo che molti degli investimenti fatti in Industria 4.0 si portano dietro investimenti in capitale umano e riformazione. Grazie allora, grazie Presidente dei piccoli, dei giovani, non dei piccoli, possono essere anche piccoli, ma intanto sono giovani, dei giovani imprenditori di Confindustria, grazie. Marco Guy. Something good. Allora, dicevamo che oggi si è parlato molto di impresa anche durante la consegna del premio Leonardo. Qualcuno di voi mi sta scrivendo sulla frase del ministro Calenda. Allora, che cosa ha detto Calenda? Ha detto che, commentando i dati sull'occupazione, ha detto: attenzione, che l'occupazione non si crea con, per creare lavoro e reddito non esistono scorciatoie, non esistono invenzione di redditi, invenzione di lavori, invenzione di bonus. E qui qualcuno ha voluto leggere una polemica con gli 80 euro famosi di Renzi. Dobbiamo essere ottimisti o pessimisti, dobbiamo essere realisti. Non credo che sia compito del governo spargere ottimismo, né che sia compito dell'opposizione spargere pessimismo. E anche questo è un riferimento, diciamo, all'ottimismo imperante in buona parte del governo Renzi. Per buona parte del governo Renzi, chi vuole dilettarsi va a riascoltarsi qualche puntata di Focus Economia, quando invitavamo molto modestamente l'ex premier a stare attento, a continuare a raccontare che il paese aveva svoltato, che l'Italia era cambiata, perché poi, se questo uno non lo vede nella vita di tutti i giorni, si sente anche preso in giro, diciamo, come è cambiato solo per gli altri. E i tassi di crescita che continuiamo a registrare non sono tali da poter immaginare che nel breve periodo una larga fetta della popolazione possa dire: bene, la situazione sta cambiando. Sono tassi di crescita marginale, lenta, per cui la situazione non sta peggiorando. Sicuramente il fondo l'abbiamo toccato tra 2013 e 2014, ma diciamo che il recupero sia un recupero tangibile per tutti, insomma, questa è un'altra storia. Dopodiché Calenda ha detto: non c'è nessuna polemica nelle mie parole, anzi, il più importante programma di politica industriale, quello che va sotto nome di Industria 4.0, è stato varato. Il più importante piano di politica industriale varato da molti anni a questa parte è stato disegnato, pensato ed approvato dal governo Renzi e va sotto il nome di Industria 4.0. E invece Calenda è stato abbastanza positivo, dicendo: guardate che in Italia il 60% delle imprese ce la può fare, spesso sono frenate dalla dimensione e dalle anomalie del sistema italiano, ma su questo 60% ci giochiamo la partita dalla prospettiva del paese. Chi anni fa prevedeva un'Italia fuori dall'industria, un'Italia contro la storia perché specializzata in settori che si riteneva non avrebbero più avuto casa nel mondo occidentale, ha sbagliato questa previsione, e vi garantisco che erano più o meno tutte le istituzioni internazionali, a partire dal Fondo Monetario e dall'OCSE. Noi oggi abbiamo un 20% delle industrie che va, compete, certo, ogni giorno è una sfida, niente può essere dato per acquisito. Un altro 20% all'estremo opposto dello spettro, che è in una situazione molto pericolosa. Penso tutto al settore della metallurgia, dell'acciaio, che ha vissuto per anni una competizione francamente scorretta, che in Italia ha sofferto di malattie tutte specifiche italiane, penso a un costo dell'energia esorbitante. Questo mondo è un mondo a cui va dato una risposta oggi, che è una risposta di particolare attenzione. E poi c'è un mondo intermedio, che è la nostra riserva, è il nostro serbatoio di eccellenza. Sono il 60% circa delle imprese che ce la possono fare, stanno combattendo per arrivarci. Spesso sono frenate dalla dimensione, spesso sono frenate dalle tante anomalie che il sistema italiano ancora ha per quanto riguarda l'industria. Su questo 60% noi giochiamo la partita della prosperità del paese. E a questo 60% sono dedicate le due iniziative che abbiamo costruito di politica industriale: prima il piano straordinario per il Made in Italy e poi il piano Industria 4.0. Allora, voi sapete che io ho una debolezza per Carlo Calenda, come ce l'ho per Mario Draghi. Non ho rapporti, diciamo, di altro genere con i due. Devo dire che a me Calenda piace anche per il suo pragmatismo, almeno però lo dichiaro. L'analisi che ha fatto, poi uno può disquisire sulle percentuali, ma è l'analisi corretta ed è anche l'analisi onesta, perché dire a tutti ce la farete tutti, no. Dire però ce la faranno solo le eccellenze, cioè il 20% di chi ormai ha già scavallato, sarebbe sbagliato. E devo dire che più o meno nei numeri forniti da Calenda modestamente mi ci ritrovo, nel senso che c'è la via di mezzo, la fascia di mezzo delle imprese che va aiutata, ma ce la può fare. E questo è avvenuto durante la consegna, appunto, dei premi Leonardo 2016. Vorrei restare su questo tema anche con uno dei premiati. Allora, gli altri premiati sono stati il premio Leonardo, quello, diciamo, Leonardo 2016 l'ha vinto il presidente di Brembo Alberto Bombassei. E poi i premi Leonardo Qualità Italiana li hanno vinti il gruppo Maccaferri, il gruppo Veronesi, la Masi Agricola e il gruppo marchigiano Elica. E abbiamo in collegamento, non potevamo invitarli tutti, proprio il presidente di Elica S.p.A., Francesco Casoli. Buonasera. Buonasera Barisoni, buonasera. Allora, leader mondiale nel mercato delle cappe da cucina di fascia alta, e con lei anni fa mi ricordo che parlammo anche della concorrenza cinese. Eccolo qua che è arrivato il genio. Ma vai Barisoni, sei pronto per la politica? No, non si preoccupi, la politica ha già tanti problemi, non ha bisogno del mio aiuto, averne altri. Però posso esprimere una valutazione, visto che critichiamo ministri, critichiamo presidenti del consiglio italiani ed esteri, posso dire che ogni tanto, se qualcuno fa un ragionamento che condivido, è condivisibile, o bisogna buttare tutta quella cosa lì nel ventilatore? Allora, Casoli, resti con noi perché il tema toccato da Calenda, secondo me è il tema poi, e voi avete una storia di un distretto, quello marchigiano delle cappe, che era andato, non dico in crisi, ma in estrema difficoltà prima della crisi del 2008, 2003, 2004, 2005, per la concorrenza cinese. Cioè, voi la globalizzazione l'avete presa prima che crollasse Lehman Brothers, e vorrei capire come lei, ma anche altri attori, siate riusciti a riposizionarvi, perché poi questo è il tema, se ho ben capito, che sottolinea Calenda, cioè riuscire a aiutare il 60%, un 20% ce l'ha fatta, il 60% che ce la può fare, a scavallare. Dopo il metro pubblicità, la risposta 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, 17:40 minuti, Francesco Casoli, uno dei vincitori appunto del premio Leonardo in questa edizione, presidente di Elica S.p.A. Intanto tutta la nostra vicinanza ai comuni delle Marche, oltre che agli altri comuni colpiti dal terremoto, adesso non posso citare tutti, da Pignano del Tronto a Fabriano, appunto, dove c'è il distretto delle Marche, Macerata, Foligno, Falerone, Tolentino e quant'altro. Quindi, tra l'altro, la situazione com'è, caso, dal punto di vista dell'imprenditore in questo momento? Poi arriviamo. No, la situazione si è normalizzata, per l'industria si è normalizzata. Abbiamo ancora dei problemi nell'agricoltura, dove gli allevamenti stanno soffrendo, però per noi nell'industria onestamente siamo proprio tra i primi. Allora, torniamo al ragionamento fatto da Calenda. Come si fa? Io ricordavo le difficoltà che ha avuto il distretto, come altre, delle cappe di Fabriano, per la concorrenza anche cinese. Come si fa a fare quel traghettamento che ricordava Calenda, cioè quello che il 60% delle imprese non ha ancora fatto, il 20% sì, poi c'è un 20% che probabilmente non ce la farà, ma insomma noi dobbiamo occuparci del 60% adesso. Sì, noi come abbiamo fatto? In tre mosse: borsa, dimensione e competenza. Con la borsa siamo riusciti a prendere i capitali nel momento giusto per poter poi affrontare la dimensione, quindi con un po' di acquisizioni e un po' di investimenti in giro per il mondo siamo diventati grandi. La competenza, che è l'ultima parte, è quella che ci ha permesso di portare la creatività, di portare la tecnologia, di riuscire su un mercato difficile come quello delle cappe, come quello degli elettrodomestici, a mantenere un primato nazionale. E secondo me è su quest'ultima cosa che Calenda, il governo, deve investire. Cioè, noi abbiamo bisogno di competenza. Dimensione, borsa, questa è roba nostra, cioè gli imprenditori sono quelli che devono scegliere come muoversi. Noi abbiamo bisogno di competenza, abbiamo bisogno di talenti, e su questa cosa io penso che è lì che ci aspettiamo veramente dal governo, dallo Stato, dalla nazione un risveglio. Restiamo un attimo sui talenti, perché anche il presidente Confindustria Boccia ha detto oggi, intervenuto appunto al premio Leonardo, ha detto: attenzione, a noi servono, noi ci impegniamo per quello che possiamo fare nelle fabbriche, però per quello che accade fuori dalle fabbriche ci serve una politica economica all'altezza di un paese industriale come il nostro. Con responsabilità, quello che dobbiamo fare nelle fabbriche, noi. Quello che dobbiamo fare fuori dalle fabbriche. Una politica economica che sia all'altezza di un grande paese industriale come il nostro. E il collegamento, scuola, università, mondo del lavoro, pubblica amministrazione, giovani. Un grande percorso che diventa un progetto di vita, un'idea paese, che ha spiegazioni economiche a fronte di obiettivi politici, in cui impariamo anche a saper raccontare un paese che ha potenzialità incredibili e che ha delle tradizioni impressionanti. Allora, però, Casoli, come fa, diciamo, il governo, la politica a così creare, non dico creare talenti, ma mettere voi nella condizione di cercare i talenti, non so come dire. No, guardi, Barisoni, chiaramente questa è una cosa che non si può risolvere in un mese o in una finanziaria. Questa qui è una cosa che deve modificare la cultura e l'approccio, che è quello che un po' diceva Boccia, che è quello che ha detto anche Calenda. Cioè, noi dobbiamo incominciare a mettere insieme questi mondi che finora in Italia sono stati a distanze siderali. Università, impresa, sembra facile, è una cosa che tutti quanti hanno in bocca. Poi nell'atto pratico, quando parliamo di ricerca, quando parliamo di cercare di condividere gli obiettivi, non è poi così banale. E per cambiare questo, ripeto, non basta un decreto, ci vuole che il governo ci dia la linea, ci vuole che tutti quanti poi a livello proprio di cultura e a livello di indirizzo incominciamo a lentamente, perché non possiamo fare una curva a 90 gradi, ma che tutti quanti cominciamo ad andare in quella direzione. Anch'io sono un grande fan di Calenda, come lei, l'ho sentito prima che ha dichiarato questa cosa, siamo tutti fan di Calenda, però ecco, cerchiamo di incominciare tutti quanti a capire quello che dice e a cercare di seguire le sue indicazioni. Tornando invece quindi alle formule, prima di salutare, lei ha detto, insomma, noi prima abbiamo trovato i capitali, che poi siano con la borsa o con un fondo o con le banche, dipenderà dal dipendente. E abbiamo poi, questo ci ha permesso di crescere nelle dimensioni e quindi anche poi andare a competere sui mercati. I cinesi, mi interessa, insomma, in maniera specifica questo tema, che a voi faceva una concorrenza proprio dura sulle cappe, sul prezzo, no? Perché poi... Io sono nel distretto di Fabriano, e a Fabriano noi avevamo un'azienda che si chiamava Antonio Merloni, che faceva lavatrici ed era leader mondiale di lavatrici, che è stata spazzata via dalla Turchia. È arrivato un turco che con costo del lavoro bassissimo, con competenze, perché poi anche questi paesi, lei parlava di Cina, la Cina, la Turchia, in Cina si costruiscono gli iPhone, quindi ci sono delle competenze che non sono seconde all'Italia, ma neanche alla Germania, ma neanche agli Stati Uniti, che appunto decidono di andare a costruire gli iPhone in Cina. Quindi noi bisogna che innanzitutto che ci leviamo dalla testa che questi cinesi sono bassa qualità e basso prezzo, non è così. Quindi noi come possiamo batterli? Noi li possiamo battere, chiaramente cercando di essere più pervasivi a livello distributivo, B, con il design, perché il design, volente o nolente, ancora ha il suo peso, e quindi il design italiano, la cultura che c'è dietro il design italiano ancora è vincente. Ma non basta il talento, non basta il design, ci vuole poi anche la dimensione, perché noi dobbiamo continuare a pensare di produrre e rimanere manifatturieri in Italia. Non potremo continuare a fare tutto quanto in Italia, ma sicuramente qua noi abbiamo la possibilità di continuare a mantenere uno zoccolo duro di produzione. E questo noi, grazie al 4.0, grazie a questa ricerca anche sui processi, dove sicuramente anche qui non abbiamo niente da imparare da tanti paesi, noi possiamo giocarcela. Secondo me, mio modesto avviso, abbiamo ancora 5 anni. Se in 5 anni noi riusciamo a giocarcela e quindi a lavorare insieme, come si diceva prima, forse ne usciremo fuori vivi. Altrimenti, chiaramente, poi il Milan viene comprato dai cinesi, altre aziende, vedo che acquisizioni sull'alimentare sono quasi tutti i giorni, e altrimenti poi ci mettiamo il paese al miglior offerente. Allora, speriamo che non sia così, fermo restando che non abbiamo nulla contro gli investimenti e i flussi stranieri in Italia, perché abbiamo raccontato anche molte volte che quando sono sani non vanno assolutamente a toccare anzi investono sui marchi italiani. Bisogna capire che tipo di investimento è, però non puoi aspettare solo gli investimenti degli altri, perché sennò a quel punto sì, la colonizzazione ce l'hai, non hai più capacità interlocutore. Complimenti ancora per il premio, Francesco Casoli, e ai suoi dipendenti, chiaramente. Grazie, complimenti. Avete, quanti sono? 4.000 dipendenti? Sono 4.000, fatturiamo 450.000, ci siamo un po' in tutto il mondo. E quanti sono in Italia i 4.000? Di 4.000 in Italia ne abbiamo 1.200. Perfetto. Grazie ancora, in bocca al lupo ai dipendenti tutti, a partire dai 1.200 italiani. Traffico. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Focus Economia. Allora, dicevamo, vedo molti messaggi sul tema, a chi mi chiede, stiamo preparando questo appuntamento, non so se sarà fisso un giorno o ciclico, il tema, il titolo provvisorio è Futuro o paura, poi vedremo se sarà il titolo confermato. L'idea di avere uno spazio dentro questo programma in cui qualcuno mi scrive dei T-Talks americani, sì e no, nel senso che quelli sono anche troppo alti come scenari futuri, un pochino più basso come nella linea di questo programma, un pochino più concreto e pragmatico, però cercare di capire queste sfide non solo lette e interpretate con la pancia, ma è innegabile che quello a cui noi stiamo assistendo è una paura che poi si trasforma in richieste di dazi, in richieste di neoprotezionismo, in richieste quasi di neoluddismo, cioè di bloccare, diciamo, i processi di innovazione, ma una paura che non nasce da una schizofrenia, nasce dalla constatazione che spesso la qualità dei posti di lavoro che si è creata in questi anni è stata non buona. Vedi il caso della Gran Bretagna e il caso degli Stati Uniti, con le conseguenze politiche che questo ha avuto, e che se non c'è un accompagnamento, una spiegazione, un parlare, un ragionare sulla cosa, è chiaro che il futuro così incerto fa paura. Di fronte alla paura le reazioni sono sempre di pancia, quindi invece continuare a dire solo no, questo è il futuro, devi arrangiarti, perché uno poi dice no, non mi arrangio, voto piuttosto, muoia Sansone con tutti i filistei. Invece se si fa un ragionamento, avremo ospiti di carattere molto diverso su il fenomeno che stiamo attraversando, che come in tutte le rivoluzioni è un fenomeno che è pieno di incognite, e ripeto, nelle fasce sociali, che siano imprenditori, che siano artigiani, che siano commercianti, che siano tassisti, che siano dipendenti, che siano gli operai, genera paura. Allora se tu lo spieghi ottieni forse dei percorsi virtuosi, ma se gli dici no, questo è, arrangiati, e la paura si trasforma, non dico in rivolta, ma sicuramente in rivolta politica. Dicevo degli interventi di oggi, vorrei far ascoltare ancora due cose se ho spazio. Da un lato un altro vincitore del premio Leonardo, e mi riferisco a Sandro Boscaini, al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. Lui è leader, diciamo uno dei leader della produzione di Amarone, e ha la Masi Agricola, il nostro ospite già altre volte, della Valpolicella Classica, e poi invece anche il presidente dell'ICE, perché quando parliamo di premio Leonardo, di Made in Italy all'estero, il ruolo dell'ICE è e resta un ruolo fondamentale. Nel caso specifico nostro, punti di forza è l'interpretazione fedele, autentica di una storia antica, qual è quella dell'Amarone, e Masi è il leader della produzione dell'Amarone, un vino particolarissimo che è fatto con delle uve autoctone che hanno dimorato da sempre nelle colline della Valpolicella Classica, e un vino che oggi è un vino moderno dal cuore antico, oggi va in tutto il mondo, piace per questa sua originalità. Cosa significa essere un imprenditore in questo settore in particolare nell'Italia di oggi? Allora, io credo che l'Italia abbia delle grandi potenzialità che insistono nella sua storia, nelle sue tante diversità, nelle culture diverse, però che hanno come fondamento una cultura di base, che è la cultura del bello, del buono e del ben fatto. Allora, essere imprenditori d'oggi vuol dire interpretare in questo senso il bello, il buono e il ben fatto con una radice di originalità che ci viene dalla storia. I dati dell'export, anche nel 2016, che è stato un anno di grandi tensioni internazionali, sono andati bene. Pensi che noi siamo cresciuti export 1.1, il PIL è cresciuto 0.9. Secondo me l'Italia sarà uno dei pochissimi paesi al mondo dove l'export è cresciuto più del PIL. Questo significa che l'esportazione è ancora il motore trainante della crescita italiana. Eppure siamo in affanno. A che cosa è dovuto secondo lei? Ma diciamo un po' è dovuto a un contesto che è veramente difficile da prevedere e come tale da gestire. Definire quelli che sono i mercati di sbocco prioritari in un contesto internazionale così ondivago diventa complesso. E poi dobbiamo insistere a lavorare come sistema, a definire chiaramente obiettivi, priorità, e tutti remare nella stessa direzione. Cosa che devo dire, ultimamente si fa molto di più, però c'è ancora spazio per migliorare. Allora, vedo che molti stanno scrivendo anche sul titolo, qualcuno mi dice cambio di paradigma, scrivete la rubrica, vorremmo l'appuntamento, vorremmo farlo, anche per fornire gratuitamente insomma qualche riflessione, però su cose concrete, non su grandi scenari così futuristici. Per ora il titolo provvisorio è Futuro paura. Ne parliamo dopo, non solo di questo, parliamo anche della borsa, e ci mancherebbe, e della vicenda, qui dobbiamo andare proprio sulla cronaca della vicenda Consip, che sta diventando un germinaio con un imprenditore. Qualcuno mi chiede, ma come, Romeo nella vostra classifica? Sì che era la nostra classifica sulla Fittopoli a Napoli, quando abbiamo raccontato di quanto poco venissero pagate le case di prestigio e di proprietà del comune, abbiamo fatto notare che fino a poco tempo fa era gestita proprio da Romeo, ma poi da Alfredo Romeo. Era il patrimonio fino a 5 anni fa era gestito alla società di Alfredo Romeo, che è al centro insomma di questa indagine anche Consip. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriveremo anche all'inchiesta sulla Consip. Prima però la borsa, più 0,40% Milano, più 0 niente Parigi che è invariata, meno 0 niente Francoforte che è invariata, e meno 0 niente anche Londra perché è invariata anch'essa. L'America perde lo 0,23%, seduta diciamo abbastanza tranquilla, tranne Hugh Saint Apporté più 4,1%, Unicredit più 2,30%, Leonardo più 2,20%, Brembo più 1,5%, come Finecobank più 1,40%, Recordati più 1,20% come Snam. Fronte opposto Prismian, l'ex Pirelli Cavi meno 2,70%, Luxottica meno 1,80%, Unipolsai meno 1,20%, Saipem meno 0,70%, come le Poste italiane. Euro a quota 1,05 sul dollaro. Parleremo anche fra poco di Snapchat. E adesso vi arriviamo, però prima, come sempre, con Radio Cori sulle 24 ore nella persona di Guido Maurino. Buonasera Guido. Buonasera. Allora, dicevo, Jux immagino che vada bene per i conti, e ho visto anche i conti Moncler. Sì, allora, per quello che riguarda IUX sono appunto i conti, alcuni dati come quello del fatturato erano già stati diffusi, ma quello dell'utile netto che è stato diffuso ieri è stato considerato superiore alla tesi degli analisti e oggi appunto il titolo ne ha beneficiato. Moncler in realtà aveva già diffuso i conti due giorni fa, ma sono stati conti che sono stati comunque molto apprezzati dal mercato, il titolo oggi ha continuato a correre e ha guadagnato lo 0,95%. Ancora sui titoli Unicredit, insomma ci sono state dichiarazioni importanti ieri di Mustier, immagino che ancora il titolo ne risenta positivamente, no? Sì, ci sono state queste dichiarazioni, questa sottolineatura sull'indipendenza della banca che hanno fatto bene al titolo, ma adesso si guarda soprattutto a cercare di capire quali saranno i soci che emergeranno dall'aumento di capitale, visto che è stato un aumento di capitale molto consistente, di 13 miliardi che dovrebbe aver ridisegnato almeno in parte l'azionariato. A favore delle facendo scendere il peso delle fondazioni e aumentando quello dei fondi. No? Esatto, proprio uno di questi fondi, Capital Research, che abbia acquistato ulteriori azioni, si è rafforzato passando dal 6,5 circa all'8%, altri movimenti ci saranno, anche se servirà un po' di tempo perché tutti i fondi che hanno preso posizioni importanti emergano. Generali piatta, lo dico a chi mi scrive, invece su Luxottica pesano le prospettive 2017 perché sostanzialmente abbiamo scoperto che la combinazione industriale con Essilor permetterà a Luxottica di raggiungere oltre 16 miliardi di vendita nel 2024 a fronte dei 15 miliardi previsti, lo ha detto Massimo Vian che è l'amministratore delegato di Luxottica presentando i dati agli analisti, i dati però le prospettive non sono piaciute. Sì, diciamo che in qualche modo potremmo accomunare, pur facendo mestieri totalmente diversi, Luxottica e Prysmian, perché entrambi hanno comunque comunicato dei conti molto buoni, in qualche caso anche con dei record, ad esempio pensiamo al margine operativo lordo di Prysmian. Tuttavia le prospettive per il 2017 sono apparse agli analisti in qualche modo deboli o piuttosto deboli, nonostante proprio anche su Luxottica l'amministratore delegato Vian si sia detto particolarmente ottimista per il 2017. Sono state dichiarazioni che non hanno convinto troppo, almeno nella giornata di oggi, il mercato e il titolo Luxottica ha ceduto l'1,79% e Prysmian il 2,71%. Ancora chiudiamo con Leonardo, ex Finmeccanica, perché qui c'è una notizia di mercato, una notizia industriale, non di mercato, perché la Boeing ha scelto gli elicotteri, se ho ben capito, di Leonardo per partecipare alla gara per la US Air Force, per le forze aeree statunitensi, per 84 elicotteri. Sì, sostanzialmente qui devono rinnovare la flotta degli elicotteri negli Stati Uniti. Leonardo si presenta insieme alla Boeing proprio per fornire gli elicotteri ed è un'alleanza che insomma, in prospettiva potrebbe essere positiva per l'azienda italiana. La notizia è arrivata a borsa chiusa, quindi può aver avuto un impatto forse minore nel corso della giornata, col mercato che ha continuato a guardare anche a questa possibile cessione del 49% certo. della società controllata americana DRS, anche perché c'è tutto un po' un riposizionamento per potersi mettere in una condizione privilegiata con l'amministrazione dopo USA. Dopo l'annuncio di Trump di 54 miliardi di spesa nella difesa, allora i conti dell'Enel ha chiuso il 2016 con un utile di 3 miliardi 200 milioni di euro fatturato a 70 miliardi e 600 milioni, fatturato diminuito del 12%, il numero uno Staracci ha evidenziato l'aumento dell'utile da 3,1 a 3,2 miliardi più 3%, ottenuto grazie alla riduzione dei costi pari all'8%, per quello che riguarda l'andamento del titolo Enel più 0,80%, migliori e peggiori. SMRE più 22, DADA più 15, Softec più 14,90, peggiori invece Gequity meno 6,60, Sintesi meno 5%, di Mail Group meno 4,70. Grazie intanto a Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, c'è un'altra notizia oggi in borsa, prima di arrivare all'inchiesta Consip, che riguarda la quotazione in borsa di Snapchat, spero di pronunciarla bene, vale 33 miliardi di dollari, il maggiore collocamento in borsa dai tempi di Alibaba nel 2014. Poi c'è un ascoltatore che mi scrive, preferisco lei e Mario Platero, gradirei più frequenti interventi del geniale professor Sapelli e il ritorno della bella veneziana Lidia Zancanera. Allora, nell'ordine, la Zancanera non è veneziana, due è in maternità e viva la maternità in generale. Sapelli lo avremo assieme ad altri ospiti, a proposito anche dell'appuntamento che stiamo lanciando, questi T-Talks, insomma, sul futuro o paura o futuro, alcuni mi suggeriscono altri titoli, futuro, opportunità o minacce. Mario Platero è fisicamente qua perché oggi non è a New York ma è a Milano. Buonasera Mario, dovete accontentare di Platero, è l'unico che abbiamo trovato. Buonasera, con cui vorrei parlare di Snapchat, perché nella somma ignoranza che mi contraddistingue, oltre che l'età non aiutarmi, però tu sei più anziano di me, ma ne sei più giovane, sei più giovane di spirito, se mi fai finire il complimento. 33 miliardi di dollari per una, diciamo, società che manda foto, testi, video con la caratteristica che si autocancellano, se ho ben capito, come si capisce chiaramente non l'ho mai usata in vita mia. Ma insomma, 33 miliardi su che proiezioni? Adesso torno a essere serio, su che proiezioni? Allora, sulla proiezione che sono girati su questo Snapchat 10 miliardi di video, 10 miliardi di video. Allora, che succede? Che il mercato è impazzito, non solo, ma sono soprattutto giovani, cioè è la fascia dei giovanissimi che usa Snapchat. E appunto, cosa fanno questi giovani? Riescono a fare dei collage di video, di messaggi, di foto, creano delle storie, le mettono su Snapchat, lo chiamano uno snap appunto, e attenzione perché all'inizio spariva anche in pochi secondi, cioè tu puoi dare l'ordine che sparisce in 3 secondi, in 5 secondi, comunque di sicuro sparisce nel giro di 24 ore. Può sembrare una cosa strana, perché uno dice ma io me lo vorrei tenere in memoria, ma questa caratteristica evidentemente piace moltissimo ai giovani, appassionati di questa cosa. E come tu dici, ma tu pensa, Sebastiano, cosa è successo dall'8 novembre a oggi? Cioè abbiamo avuto un rally americano che è incredibile, perché nel giro di 14 giorni, il 22 novembre, siamo arrivati a quota 19.000. 25 gennaio, 20.000, parlo dell'indice Dow Jones. Ieri, mercoledì, siamo arrivati a 21.000. Cioè a colpi di 1.000 punti alla volta. E in questo contesto, i valori quali sono? Perché uno può dire, ma tu pensa che il valore di collocamento di ieri, da cui è partito, era di 24 dollari. Il valore due settimane fa si pensava a 17 dollari. Siamo arrivati con un aumento del 40%, siamo arrivati a 33 miliardi di dollari contro i 24 miliardi di euro di capitalizzazione. Ma non, quindi, c'è il rischio di una bolla, dico con massimo affetto. No, ma per questo te lo dico, perché uno potrebbe essere nervoso, io sarei nervoso, ma cosa sta succedendo? È soltanto un Trump rally? Soprattutto su un titolo tecnologico di questo genere, è il più grande IPO da Alibaba nel 2014. Però a quel punto facciamo una prospettiva. Si diceva lo stesso, se ricordi, quando è stato collocato Google. Si diceva lo stesso quando è stato collocato Facebook. Oggi Google vale 584 miliardi di dollari. Facebook ne vale 400. Allora ecco che l'investitore dice, io per non sapere leggere né scrivere compro, pago un premio di 40%, vuol dire che invece di 24 lo pagherò 28, 30, quello che è, però se poi mi va a 100 è sempre un vantaggio. Quindi c'è secondo me una componente speculativa di rischio in tutto questo. Grazie al giovanissimo Mario Platero, perché vedo che avevano preso nota anche gli assistenti, i registi, nessuno qua sapeva benissimo che come funzionasse Snapchat, siamo tutti troppo vecchi di testa, e ce l'hai spiegato, il rischio di una bolla, alcuni mi scrivono è una bomba atomica, ho capito, però attenzione che è vero, si disse lo stesso anche di altri collocamenti, a partire appunto da Facebook e da Google. Devo dire che però lì alcuni margini si sono fatti, perché insomma, non è rimasto solo un dilettarsi con i social o con un motore di ricerca. Volete sapere anche di Twitter? Insomma, adesso non possiamo parlare di tutti i titoli collocati, anche perché dopo il traffico, nel ringraziare Mario Platero, parliamo di cose di casa nostra, per dire cose di casa nostra, ma il lapsus era, diciamo così, quasi freudiano, perché parliamo dell'inchiesta Consip. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, il settimanale Espresso pubblica i verbali con le rivelazioni dell'amministratore delegato della Consip. Cos'è la Consip? È la centrale d'acquisto della pubblica amministrazione. Ne abbiamo parlato molte volte perché l'idea di ridurre i costi della pubblica amministrazione, le spese per beni intermedi, passa in una spending review anche attraverso una centrale d'acquisti, e abbiamo visto degli effetti già benefici sul costo di alcuni beni per la sanità, penso alle siringhe, ai famosi prezzi standard. Però Carlo Russo, sostiene Luigi Marroni, che è amministratore delegato della Consip. Carlo Russo mi ha chiesto di intervenire sui commissari di gara per conto del papà di Matteo Renzi e del parlamentare di Ala, cioè Verdini. Mi dissero che loro erano arbitri del mio destino professionale. Così appunto Marroni ha ascoltato come testimone dai PM di Napoli in dicembre, e le carte sono uscite adesso. Nell'interrogatorio il manager racconta di un vero ricatto subito da un sodale di Tiziano Renzi, l'imprenditore appunto Carlo Russo, con quello che tra l'altro, se non ricordo male, ha ricevuto anche, è finito anche in altre inchieste. Comunque Carlo Russo, con pressanti richieste di intervento sulle commissioni di gara per favorire una specifica società, parla di incontri riservati con il papà di Matteo Renzi a Firenze e di aspettative ben precise da parte di Denis Verdini e Tiziano Renzi sull'assegnazione di gare Consip per centinaia di milioni. Si difende il padre di Renzi, Tiziano, che dice: mai preso soldi, non ho nulla da nascondere, mi interroghino. Questa inchiesta, Raffaella Calandra, nasce dalla Procura di Napoli sulle attività dell'immobiliarista napoletano Alfredo Romeo. Perché lo citavo per la classifica? Perché Romeo, fino a 5 anni fa, era colui il quale gestiva i famosi immobili del Comune di Napoli, di cui abbiamo raccontato nella classifica venerdì scorso. È indagato per concorso esterno in associazione camorristica. Fino al 2012 gestiva appunto questi immobili, tra l'altro affittati ancora adesso in molti casi a cifre irrisorie, insomma, scandalose. Ma non voglio tornare su questo. Su cosa si basa l'inchiesta? E se ho ben capito che Romeo avrebbe ottenuto appalti in cambio di tangenti, ma perché entrano, oltre che l'ex deputato di Italo Bocchino, diventato consulente di Romeo, perché vi entra anche Tiziano Renzi? Perché poi il cuore è questo, politicamente parlato. Prego. Romeo, vecchia conoscenza, perché delle cronache giudiziarie, perché già nel 2008 un'altra inchiesta in cui però fu assolto fece traballare gran parte del mondo della sinistra. Allora, perché? Perché Alfredo Romeo, noto anche per la sua ampia rete istituzionale e politica che emerge chiaramente dagli atti di questa inchiesta, aveva costruito i suoi rapporti e gli appalti che aveva ottenuto con la Consip, appalti per 400 milioni, grazie soprattutto al rapporto, diciamo, ben oleato a suon di mazzette con una persona all'interno di Consip, Marco Gasparri, che ora sta collaborando con i magistrati, sta raccontando incontri, pagamenti, e che anche per questo ha evitato il carcere. Quindi, in sostanza, quello che sta emergendo dagli atti, ho letto tutte le carte dell'ordinanza e i vari decreti e quello che sono stati allegati agli atti della magistratura, dei PM di Napoli e di Roma, sono i rapporti tra Romeo e questa rete per arrivare all'uomo numero uno della Consip. Come ci arrivava Romeo? Cioè, quindi i rapporti per arrivare a Marroni. Esatto, cioè Romeo era convinto di essere vittima di un complotto. Diceva che gli appalti alla sua società non venivano mai assegnati, che anzi venivano favorite delle società vicine ad un imprenditore, Bigotti, legato a Verdini. A quel punto Romeo decide che era necessario un intervento su Marroni, e per raggiungere Marroni mette in atto questa sua rete di rapporti istituzionali attraverso appunto Tiziano Renzi e il rapporto di amicizia che ha con Marroni. Quindi quello che emerge in questa inchiesta è che appunto Renzi inteso come Tiziano, anche se la domanda che a questo punto c'è nell'inchiesta è: fin dove arriva il massimo livello politico evocato dallo stesso Romeo per poter sbloccare la sua situazione? È questa la domanda. Sì, e domani Marroni dice una cosa abbastanza inquietante quando ricorda, e la leggevo prima, che gli è stato detto, gli dice di aver subito un vero ricatto con presunte richieste di intervento, ma soprattutto quando gli viene detto: attenzione che il tuo futuro, diciamo, mi dissero che loro erano arbitri del mio destino professionale. Ora, come cavolo fanno un imprenditore, e non so come definire il ruolo di Bocchino secondo l'inchiesta, ma insomma, a dire che sono arbitri del destino professionale della missione legata alla Consip, la quale Consip, tra l'altro, lo dico, ha ottenuto anche dei buoni risultati quest'anno. Abbiamo ricordato un risparmio di 700 milioni di euro nel approvvigionamento di alcuni beni intermedi, e abbiamo fatto anche una proiezione: se tutte le amministrazioni si fossero adeguate al minor prezzo spuntato dalla Consip, avremmo risparmiato quest'anno 3 miliardi e mezzo di beni intermedi. Però dico, insomma, come fa a sentirsi minacciato Marroni da un imprenditore, tra l'altro col passato di Romeo? A suo dire, perché poteva avere il potere di fargli revocare l'incarico. Questa è la risposta alle sue paure. Ma il mondo di questi rapporti, anzi, per dirla con le parole del GIP, i rapporti tra cattivo politico e pessimo imprenditore, queste sono le sue parole, sono ben chiare nel racconto che fa Intercettato Italo Bocchino, consulente appunto di Romeo, oltre che ex parlamentare. Perché dice che i Consip era diventato, gli appalti della Consip venivano gestiti come bacino di voti e soprattutto come un modo lecito per finanziare il politico di turno, e questo è il motivo per cui Consip non è esplosa. Questo racconta Bocchino riferendo parole di un ministro in una audizione. Sì, bisogna stare attenti, adesso lo dico perché insomma noi siamo ancora garantisti, ci mancherebbe, ci può essere Milan tanto credito, ci può essere quello che chiama e dice guarda che io posso arrivare dove voglio, e in realtà millanta credito. Certo. Lo abbiamo visto anche in alcuni errori commessi dall'inchiesta, per esempio penso a Mafia Capitale, in cui alcune cose sono state smontate. Però c'è un tema, qui c'è anche un nuovo reato, perché noi non ci dimentichiamo, noi ci dimentichiamo che c'è un reato che si chiama traffico di influenza, che è un reato, diciamo, per alcuni versi anche difficilmente dal perimetro molto difficile. Cioè, se io chiamo e dico guarda che io con la mia pressione fai uno sconto, fai un favore alla persona e sembra che con la mia posizione io ottenga questo sconto, posso essere passibile di traffico di influenza. Adesso io l'ho messa perché il perimetro non è chiaro, ma qui il perimetro invece c'è tutto, no? Si tratta, questo è il reato che è contestato a Tiziano Renzi, è un reato che ha a che fare col pacchetto dell'anticorruzione che fu introdotto con la legge Severino. È in sostanza la versione penale di quella che era un tempo la vecchia raccomandazione. Certo. Che però quando si tratta di pubblici ufficiali, quando si maneggiano soldi pubblici o soltanto nomine, non è più soltanto la segnalazione di un amico in un settore privato, ma diventa un reato. A proposito di millanterie e cose da chiarire, sono tante, un punto importante dell'inchiesta saranno anche tutti i bigliettini strappati da Romeo e recuperati nella discarica di Roma, nella discarica, con una sfilza di nomi, che sembrano rimandare a personaggi noti, politici, soprattutto campani, ma che però i magistrati chiariscono che non sono stati identificati e quindi non attribuiscono un peso a questi nomi. Allora, ne riparleremo, domani c'è l'interrogatorio, ci ricordiamo. Di Tiziano Renzi, c'è l'interrogatorio, ne riparleremo perché la cosa chiaramente si sta proiettando anche a livello politico. Qua ci sono delle primarie del PD, inutile già Giacciatona, non è tema di questo programma, ma ci arriva anche un bambino. Grazie intanto a Raffaella Calandra, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, ci sarà anche la poco invidiabile classifica. Radio 24. Libera la voglia di fare.